L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qui per raccontarvi l'Europa delle possibilità e delle opportunità, ma soprattutto l'Europa delle storie e delle persone. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche sui nostri siti euronetplus.eu oppure Radio 24, da dove poter poi riascoltare il podcast e la puntata, o i social network chiocciola Federico Taddia o ancora chiocciola Euronet Plus R24, Twitter e Facebook, e lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Anche oggi tanti ospiti, tante storie, tante persone, tante contaminazioni. Si parte dal Belgio. Se l'attualità politica ed economica viene raccontata giorno per giorno da Radio 24, anche noi appunto non ci nascondiamo e cerchiamo di affrontare a nostro modo quella che è la contemporaneità europea, e non si può non parlare di immigrazione, non si può parlare di frontiere, non si può parlare di confini, non si può parlare anche delle paure legate per esempio al terrorismo. E oggi vogliamo affrontare questo argomento insieme a un giornalista, si chiama Paolo Riva, è un collaboratore del mensile Scarpe de Tennis, il mensile della strada, una realtà importante, questo mensile di strada promosso da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana, un occhio sulle sociale, sulla realtà molto particolare. Paolo Riva è un collaboratore e ha visitato Molenbeek. Molenbeek è una cittadina a pochi chilometri da Bruxelles ed è una cittadina da cui pare che appunto siano partiti alcuni dei terroristi protagonisti delle pessime e tragiche vicende di queste settimane. Qua con noi le diamo il benvenuto. Buon sabato Paolo. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Allora, come mai questo viaggio? Cosa cercavi? Più che un viaggio si è trattato di un ritrovarmi in mezzo all'attualità, diciamo, più scottante e anche più triste per certi versi. Io sono un collaboratore da diverso tempo appunto di Scarpe Tennis, come dicevi tu, mi sono quindi sempre occupato di temi sociali e da un po' di tempo vivo parte della mia vita professionale anche in Belgio. E ho appunto iniziato a fare un po' su e giù tra Milano e Bruxelles a novembre e proprio nei giorni in cui ci sono stati i tristi fatti di Parigi di cui parlavi prima, ci sono stati anche i conseguenti blitz a Molenbeek-Saint-Jean per appunto cercare di individuare quelli che fin da poche ore dopo gli attentati si pensava fossero gli artefici. E quindi niente, un po' per curiosità, un po' per vedere da vicino questo luogo, la domenica successiva al fatti di Parigi e successiva al primo blitz di sabato sono andato di mattina a vedere un po' questo quartiere che sembrava insomma dipinto in toni molto molto cupi. E se posso raccontarti il primissimo, diciamo, certo, approccio con Molenbeek-Saint-Jean, è stato uscendo dalla metropolitana. Io vivo in alto quartiere un po' più a sud, mentre Molenbeek-Saint-Jean diciamo è nella zona nord ovest di Bruxelles. Ho incontrato come primissima persona che mi ha dato il benvenuto una giornalista francese che, telecamera in mano, voleva subito intervistarmi per sapere se abitavo lì, se ero preoccupato, se cosa ne pensavo di tutto quello che era successo. E quindi è stato insomma un approccio quantomeno particolare, anche se immaginabile, dal momento che Molenbeek per l'ennesima volta, perché non era la prima volta, è finita un po' nell'occhio del ciclone mediatico per questi fenomeni di radicalizzazione e in alcuni casi terrorismo purtroppo. Hai fatto un'intervista, hai incontrato un funzionario che lavora nel centro antiradicalizzazione del quartiere, del comune. Cosa succede lì? Perché questo fascino, così l'hai chiamato, verso l'estremismo islamico? Sì, appunto, sono tornato a Mlemmek varie volte fino ad incontrare Oliver Van den Hagen, che è appunto questo funzionario del comune di Bruxelles, del comune di Mlemmek Saint-Jean, che mi ha spiegato innanzitutto le condizioni sociali di questo quartiere, che poi sono le conseguenze della situazione attuale di questo fenomeno. Mlemmek è una cittadina di 95.000 abitanti che nel passato era famosa per le sue industrie, era considerata un po' una piccola Manchester, insomma belga, che però poi appunto prima hanno attirato ondate migratorie molto molto consistenti, prima dall'Italia o da altri paesi europei e poi da altri paesi arabi e musulmani, in particolar modo dal Marocco e anche dalla Turchia. Il processo di deindustrializzazione, che comunque ha colpito sostanzialmente tutte le nostre economie e comunque probabilmente una gestione non sempre ottimale, diciamo un po' così, di questi flussi migratori, ha fatto sì che oggi Mlemmek è una cittadina sostanzialmente più povera del resto del Belgio e del resto della regione di Bruxelles capitale di cui fa parte, con delle concentrazioni molto molto elevate di immigrati o cittadini belgi di seconda, terza, in alcuni casi anche quarta generazione, che in alcune zone di Mlemmek, non ovviamente in tutta la cittadina, arrivano da far sì che ci sia l'80% diciamo di persone o di nazionalità marocchina, turca o di religione musulmana oppure nate in Belgio da queste comunità. Il lavoro manca e quindi molto spesso queste condizioni di partenza, unite a un certo stigma sia nei confronti dei musulmani, che comunque negli anni 2000 è cresciuto un po' ovunque, sia un certo stigma associato a Mlemmek, particolarmente belga di Bruxelles, fa sì che, mi ha spiegato questo funzionario, ci sia innanzitutto un problema di identità. Lui l'ha definito proprio così, quindi queste persone faticano a trovare uno scopo, un fine, a vedere riconosciuta la loro utilità e quindi non intravedono un futuro, non hanno un'autostima, quindi nei confronti di se stessi ma anche nei confronti della collettività di cui fanno parte, e questo li rende nettamente più vulnerabili, diciamo più disposti ad ascoltare delle voci che in Belgio ai noi sono presenti e che quindi li portano a seguire dei processi di radicalizzazione. Siamo ovviamente portati a pensare a Bruxelles come il centro, come il cuore d'Europa. Quanto è lontana invece l'Europa dalla realtà che hai visto e toccato? Geograficamente è vicinissima, saranno 2-3 chilometri la piazza principale di Mlemmek dal quartiere dell'istituzione con il Parlamento e la Commissione. La storia, il contesto che descrivevo prima, ogni tanto girando per Mlemmek, ci sono stato sia la mattina, la sera, la domenica con il mercato, lo fa sembrare molto simile anche a dei quartieri, quantomeno per la popolazione o per le usanze di un paese magrebino come potrebbe essere il Marocco. Cioè, spesso capita, per dire, la sera che vedi delle sale da tè affollate solo ed esclusivamente di uomini che si dividono tra giochi tradizionali da tavolo e partite invece molto occidentali di calcio in TV. Vedi quando vai alla fermata o piuttosto che appunto al mercato tante persone, molte donne, diciamo la maggior parte velate. Vedi molte ovviamente negozi sia di alimentari che di vestiti che rispecchiano un po' la tradizione diciamo islamica, e quindi per certi versi è lontana. Per altri però comunque ci sono dei fenomeni, e su questo ha fatto molto leve, mi ha molto colpito appunto questo operatore sociale che ha diretto contatto con le famiglie delle persone che si radicalizzano principalmente, che diceva che però il problema ci riguarda da vicino ed è secondo lui precedente anche diciamo la guerra in Siria, che ha fatto ovviamente da detonatore con Daesh e tutto quanto sappiamo benissimo per questo fenomeno, perché va ricercata nelle condizioni in cui si sono ritrovati a vivere sostanzialmente i giovani, perché poi il fenomeno riguarda soprattutto i giovani delle nostre periferie europee, quindi al tempo stesso insomma Mlemmek è anche molto molto vicina, ecco, l'Europa, se sono riuscito a rispondere. Grazie davvero a Paolo Riva, e www.blogdetennis.it invece è il portale del Il mensile della strada, Scarpe de Tennis. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. l'altra Europa. Hans plays with Dottie, Dottie plays with Jane, Jane plays with Willy, Willy is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. Ancora l'altra Europa. Confini, frontiere, sono forse queste le parole più ascoltate in queste settimane parlando di Europa. Abbiamo il piacere di parlarvi oggi, di farvi conoscere quello che la Commissione Europea ha adottato, una serie di programmi di cooperazione transfrontaliera per un totale di 1 miliardo di euro, che insomma sono tanti soldi a sostegno dello sviluppo sociale ed economico delle regioni situate su entrambi i lati delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Abbiamo quindi con noi Jakub Adamovic, portavoce della Commissione Europea e responsabile della politica regionale e trasporti. Buongiorno, buon sabato e benvenuto. Buongiorno. Ci spieghi bene cosa sono questi progetti? Intanto, per cooperazione transfrontaliera, cosa si intende? Si intende tutta una serie di possibilità. In totale è 1 miliardo di euro per 30 paesi. In realtà abbiamo nel sud e nel est d'Europa tante possibilità per lavorare alle confine, per evitare di creare nuove linee di fratture. Queste misure di 1 miliardo di euro sono designate per opportunità per le autorità locali, anche in Italia, perché l'Italia è un paese situato alla confine sud, c'è possibilità di cooperazione per esempio con la Tunisia, sì, ma anche con tantissimi paesi all'est. Il molto importante è questo aspetto, evitare di creare nuove linee di fratture e fare che le confine non pesano moltissimo. Mm-hmm. E sono progetti che cercano di valorizzare il territorio, di creare nuovi posti di lavoro, di creare un indotto appunto nella zona di confine? Questo è corretto, c'è moltiple obiettivi che gli attori locali possono realizzare, per esempio è il sviluppo delle piccole e medie imprese, per esempio è la cultura, anche l'ambiente, anche i cambiamenti climatici, le questioni di energia, l'accessibilità e la gestione delle frontiere. Anche molto importante la lotta contro la povertà. C'è tanti obiettivi che possono realizzare. È la logica di questo miliardo di programmi per le regioni lungo le sue frontiere, o lungo le frontiere dell'Unione Europea. Sono 27 i paesi coinvolti da questo nuovo pacchetto di misure, come avete sentito, insomma, tante opportunità, tanti progetti. In Italia nel periodo 2014-2020 saranno circa 50 i programmi operativi gestiti. Grazie davvero, Jakub. L'ultima domanda è una domanda personale: come mai parla italiano? Perché amo molto l'Italia come paese, come un paese con una cultura, con una lingua molto bellissima, e quando posso visito tante regioni d'Italia, per la politica regionale è importante da dire che l'Italia è il paese molto importante, con tanti miliardi di progetti per tutti questi anni 2014 a 2020. strategie. Per l'Europa è chiaro, l'Italia è un paese fondamentalmente importante, un paese fondatore della costruzione europea, per questo nella politica regionale l'Italia è una priorità assoluta per la Commissione europea. Grazie davvero a Jacob Adamovic, portavoce della Commissione europea responsabile della politica regionale e trasporti. Buon sabato e buon lavoro. Grazie a lei anche. Europost-it. Mostra Il mio pianeta dallo spazio. A tutti gli amanti dello spazio e della natura, è stata prorogata fino al 14 febbraio la mostra dal titolo Il mio pianeta dallo spazio, fragilità e bellezza. Si tratta di un progetto espositivo promosso e organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e la Commissione Europea. Lo spazio è un luogo privilegiato dal quale studiare su grande scala la vegetazione, le correnti marine, la qualità dell'acqua, le risorse naturali e l'inquinamento del nostro pianeta. L'esposizione è un viaggio nei luoghi più belli e remoti della Terra, attraverso immagini satellitari e videoinstallazioni, focalizzato sui temi di agricoltura, foreste e territorio. La mostra è all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Per informazioni e costi, museoscienza.org. Nothing please me more than you. Oh, let me come close. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come close. Home is wherever I'm with you. Mettere in circolo le buone pratiche, questo lo sapete, uno degli obiettivi del nostro programma, raccontare storie, raccontare esperienze che possono diventare anche altro, che possono diventare spunto, che possono essere replicate. Per fortuna non siamo gli unici a farlo, perché per esempio il Comitato Economico e Sociale Europeo sta facendo un tour alla ricerca di pratiche di buona accoglienza dei profughi. In questo tour hanno fatto tappa anche a Milano, perché una di queste buone pratiche è stata individuata in Casa Suraia Best Practice dell'accoglienza, appunto, che vengono studiate, un progetto gestito dalla Coop Farsi Prossimo. C'è con noi Massimo Minelli, presidente di Feder Solidarietà Lombardia. Buongiorno Minelli. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Beh, insomma, sono sempre soddisfazioni, no? Che vanno un po' a suggellare la fatica, i sacrifici, il tempo di tante persone che lavorano a progetti di questo tipo. Credo che sia stato un segnale importante per voi questa visita. È stato un segnale importantissimo proprio in questo momento poter dire che esiste una buona accoglienza, che è possibile a trovare una via con cui facilitare l'integrazione anche delle persone e magari, come in caso di Casa Suraia, appunto, di persone che non sono solamente uomini o solamente donne, ma sono intere famiglie. Ecco, qual è il cuore del vostro progetto? Ma innanzitutto c'è un'ampia tradizione collegata soprattutto al mondo del consorzio Farsi Prossimo, quindi di quelle realtà collegate da sempre alla Caritas Ambrosiana in termini di accoglienza, perché l'accoglienza per queste cooperative risale addirittura sin dai primi anni 90, e hanno maturato queste cooperative una grande capacità di ascolto, di accompagnamento e soprattutto di poter dare quegli elementi fondamentali per l'integrazione, come ad esempio la guida nell'ambito degli orientamenti dei servizi, l'insegnamento della lingua italiana, la mediazione culturale, tutti gli aspetti legali di cui c'è bisogno, e poi necessariamente fondamentale l'accompagnamento al lavoro, perché senza il lavoro non ci sarà mai integrazione vera. Le istituzioni sono state accompagnate appunto in una visita nel progetto hanno incontrato anche alcuni protagonisti che hanno raccontato le loro storie. Cosa c'è di replicabile e di esportabile in altre realtà simili, secondo lei? C'è molto, perché comunque il tentativo anche che come Feder Solidarietà, cioè il mondo di Confcooperative, si sta cercando di fare è quello di connettere le migliori esperienze della cooperazione sociale nell'ambito dell'accoglienza ai rifugiati per poter far maturare anche altre esperienze a Milano, ma anche fuori Milano, in tutta la nostra regione, affinché appunto questo know-how acquisito, queste competenze maturate sul campo possano assolutamente tradursi anche in altri ambiti in buone prassi. Qui c'è in gioco non solamente il servizio alla singola persona, al gruppo delle persone, ma c'è in gioco anche una gara di solidarietà e di civiltà per fare in modo che le nostre comunità globali, quindi noi residenti e queste nuove persone che arrivano, possano trovare un modo di comunicare e di crescere insieme, perché il futuro inevitabilmente, piaccia o non piaccia, è un futuro multicolore e multiculturale soprattutto. L'Europa non può fare a meno della parola accoglienza. Non può fare a meno, è impossibile, non può essere solamente un viaggio di sola andata, cioè noi con i nostri interessi legittimi, le nostre giustamente tendenze a portare i nostri mercati in altri ambiti, e poi invece quando anche in realtà, anche in conseguenza di alcuni probabilmente errori fatti, subiamo il ritorno da parte di persone che scappano da situazioni di guerra, forse sono le cose più lampanti, ma anche da situazioni di depauperamento dei loro territori, di situazioni di gravi situazioni climatiche, allora vengono nei nostri territori chiudere, perché a questo punto le merci possono girare ma le persone non più. Se teniamo fino in fondo una linea coerente, dobbiamo pensare che il mondo ormai è così veramente un villaggio globale, così ravvicinato, che le persone come le cose non possono che girare liberamente. Meglio sarebbe riuscire a creare quelle condizioni in quei paesi dove ognuno possa veramente trovare la possibilità, se lo vuole, di esprimersi al meglio là magari dove è nato. Questo non toglie che poi liberamente, come facciamo noi, le persone possano muoversi e girare appunto per il mondo. www.farsiprossimo.it è il sito per conoscere meglio il progetto Casa Suraya, federsolidarietà.cooperative.it invece il sito di Feder Solidarietà. Grazie davvero a Massimo Minelli, buon sabato. Buongiorno. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Is teaching the golden rule, American history and practical man. You study him hard, hoping to pan, working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. If you're cooking the lunchroom ready to sell. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'Altra Europa, @ Federico Taddia. Mi trovate su Facebook e su Twitter, radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata. Vi porto a scuola in questo momento, ovviamente in chiave europea, e vi porto a scuola insieme a una signora maestra, si chiama Barbara Riccardi, è l'unica italiana fra i 50 finalisti del Global Teacher Prize del 2016, il premio Nobel degli insegnanti. Si chiama Barbara Riccardi e insegna all'Istituto Comprensivo Frignani di Spinaceto, Roma. Buongiorno Barbara, buon sabato e benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a voi e grazie tantissimo per l'opportunità di dare voce alle cose che facciamo di qualità sia a scuola, ma soprattutto per dare voce e luce a quello che facciamo noi italiani nel mondo. Infatti, proprio perché una delle chiavi fondamentali forse della sua attività è quella legata anche ai Twinning, che è questo bel progetto di cui spesso abbiamo parlato qui all'Altra Europa, questa piattaforma digitale che permette dei gemellaggi virtual reali, diciamo, tra scuole. E, tanto Barbara è rimasta sorpresa da questa nomina, da questa candidatura. Sicuramente sì, no, è stata veramente una grandissima sorpresa e ringrazio chi ha fatto il mio nome e ha portato avanti la mia candidatura, che ringrazio enormemente, anche perché veramente il Global Teacher Prize dà l'opportunità a noi docenti di poter dare voce finalmente alle cose che funzionano e di non far passare soltanto messaggi negativi e le cose che non vanno. Mm-hmm. Cosa adesso, non so se deve raccontare qualcosa, deve portare frammenti della sua esperienza in classe? Esattamente, bisogna mettere in evidenza e far risaltare tutte quelle cose che sono i processi di formazione, di didattica che attivo in classe, ma soprattutto all'interno della scuola, come appunto i progetti europei di scambio, di gemellaggio, come questo che stiamo facendo. E ora in questo momento, dal 1 febbraio al 5 febbraio, abbiamo ospiti qui da noi la delegazione della scuola francese di Parigi, dove i bambini francesi sono ospiti all'interno delle nostre famiglie, e questa è la terza edizione. Mm-hmm. Mentre con i twinning com'è andata? Qual è la potenzialità di questo strumento? È una grandissima opportunità per tutti noi per fare rete, creare relazioni in partenariato con altri paesi, quindi un'apertura verso il mondo che ci permette di avere una visione globale sia per noi docenti sia per i ragazzi e anche per i genitori stessi, e sfruttando tutto quello che può essere la potenzialità delle nuove tecnologie. Mm-hmm. E è più importante la relazione che si crea tra i docenti o quella che si crea tra i bambini, tra i ragazzi? È una duplice mandata, perché il processo di formazione deve essere alla base di tutti quanti, sia dei grandi che dei piccoli, e questo fatto di creare questi scambi ci porta a noi ad avere un momento d'incontro aperto con gli altri paesi per vedere quello che funziona nelle altre scuole e quello che funziona da noi. Tant'è vero che i due uffici scolastici di Roma, del Lazio, e l'ufficio scolastico di Parigi hanno creato un accordo appunto in partenariato con 15 scuole di Roma e 15 di Parigi per avere uno scambio sulle buone pratiche, e questo è il gioco forza proprio, dove le competenze e le abilità di ognuno si mettono in campo per creare un processo educativo e formativo di qualità. In che classe insegna lei? Una terza elementare e una seconda. È riuscita a far capire ai suoi alunni che cos'è l'Europa? Più far capire, loro lo stanno vivendo grazie uh-huh. proprio a questa possibilità di apertura di lavoro, che non sia una classe chiusa, ma la classe diventa tutto ciò che è esperienza. E l'esperienza si fa mettendosi in gioco in prima linea, dove i ragazzi con le proprie abilità e competenze si brevettano, sperimentano quello che può essere per esempio un confronto con i ragazzi di altri paesi. E loro lo vivono in questi giorni, appunto, avendo i bambini ospiti da loro e non conoscendo il francese, attivano altre modalità di comunicazione. Certo. E quello è il bello, vedere i ragazzi che anche attraverso la gestualità, attraverso il gioco, riescono a comprendersi e capire che cosa mangiano gli altri diversi da loro, che cosa sono i costumi, le usanze. E con questi progetti vediamo che loro acquisiscono una marcia in più sull'autonomia, l'indipendenza, un pensiero logico creativo, dove strutturano un problem solving nelle varie situazioni. Certo, e l'Europa entra nella quotidianità. In bocca al lupo per questo riconoscimento. Ricordiamo che verrà assegnato il prossimo marzo a Dubai in palio 1 milione di euro proprio per valorizzare il lavoro delle tante e dei tanti insegnanti in tutto il mondo. In bocca al lupo, Barbara. Grazie Crepi, e ringrazio veramente tutti voi che ci date la possibilità di parlare delle cose che funzionano nella scuola, e ringrazio la mia scuola e i miei colleghi, la preside, i collaboratori e la segreteria e i genitori, soprattutto con i ragazzi che ci permettono di fare queste cose nel mondo e farci notare. Insomma, sarà un podio bello grande nel caso. Grazie davvero, ancora buon sabato. Grazie. Amazing, actually. It's been an amazing experience which has given me a lot of new hope that I'm going to succeed in my future life. It's a translation contest organized by the European Commission for schools across the EU. I really didn't realize at first how big thing this was. Ed ha una maestra in attesa di capire se vincerà questo Nobel, ha una studentessa invece che il suo piccolo Nobel l'ha appena vinto. Le voci che state ascoltando sono quelle dei giovani che hanno partecipato all'edizione scorsa di Juvenes Translatores, che è il concorso di traduzione organizzato ogni anno dalla Commissione Europea. Beh, un paio di giorni fa sono stati annunciati i vincitori di quest'anno, un vincitore per ogni nazione, e per l'Italia ha vinto Gabriella Grassiccia, studentessa dell'Istituto Verga di Modica e che è qua con noi. Ciao Gabriella. Salve. Buon sabato e complimenti. Grazie, grazie. Intanto te lo aspettavi, cioè, sapevi di aver lavorato bene, di aver compiuto una buona traduzione? Beh, onestamente ci speravo, poi la preparazione era stata lunga, abbiamo lavorato molto in classe anche con la professoressa e le altre ragazze, ci siamo allenate a lungo e onestamente ci speravo. Bene, allora ricordiamo che ogni anno viene scelto un testo, il 2015 era l'anno europeo dello sviluppo e il testo parlava proprio di cooperazione e si è liberi di scegliere da quale lingua a quale lingua tradurre, giusto? Sì, si può scegliere la lingua, il testo e poi in quale tradurla. Di solito la lingua in cui si traduce è la propria lingua di provenienza, però è una scelta molto libera. Mm-hmm. Tu che combinazione hai scelto? Io ho scelto il testo in spagnolo e poi l'ho tradotto in italiano. Ah, ok, perché studi spagnolo immagino a scuola. Sì, io sono al liceo linguistico e studio lo spagnolo fin dal primo anno e l'ho voluto scegliere perché comunque mi piace moltissimo e l'ho studiato con passione fin dal primo anno. Ma a differenza da quello che di solito si pensa, lo spagnolo non è una lingua facile o scontata soltanto per le somiglianze foniche con l'italiano. In realtà è una lingua che va studiata con impegno e con costanza. 3.000 sono stati i partecipanti delle 28 nazioni dell'Unione Europea, insomma, quindi aver vinto, essere tra i 28 vincitori è sicuramente una cosa che ti fa molto molto onore. E quando ti sei trovato quel testo davanti, era comunque complicato? Sì, perché in questo tipo di traduzioni la cosa più difficile è tradurre le frasi fatte, i proverbi o le espressioni che comunque non si possono tradurre letteralmente perché non renderebbero il loro senso. E quindi in questo caso bisogna essere molto creativi e trovare delle nuove espressioni che mantengano il senso reale nella lingua in italiano, ma che siano anche molto scorrevoli e non facciano un brutto effetto con il resto del testo. Insomma, mi pare che tu ce l'abbia fatto. Cosa hai deciso, cosa hai scelto di fare da grande? Onestamente mi piacerebbe molto continuare con la traduzione, infatti poter fare questa esperienza a Bruxelles, vedere da vicino la Commissione Europea, per me è un sogno che si realizza, per noi che studiamo le lingue è un'esperienza più unica che rara comunque. E certo, perché appunto il premio è proprio questo, un viaggio a Bruxelles il 14 aprile, magari ci risentiamo così ci racconta in diretta anche le emozioni di questa visita. E c.europa.eu/translatores, questo è il sito per tutte le informazioni. Ciao Gabriella, complimenti a te, complimenti anche agli insegnanti che ti hanno accompagnato in questa bella esperienza. Ciao e buon sabato. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci. Europost-it. Giovani scienziati crescono con il concorso dell'Unione Europea. Attenzione, giovani aspiranti scienziati! Commissione, Consiglio e Parlamento europei hanno lanciato lo European Union Contest for Young Scientists, promosso in Italia da FAST, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. Si tratta di un concorso dedicato agli studenti tra i 14 e i 21 anni. I partecipanti dovranno conoscere l'inglese e realizzare studi o progetti innovativi in campo scientifico, in discipline come scienze della terra, chimica, fisica, matematica, medicina, medicina, scienze ambientali, energia e tante altre. Il testo non dovrà superare le 10 pagine e dovrà essere accompagnato da una sintesi in lingua inglese. Per le modalità di iscrizione, consultate il bando sul sito fast.me.it. La scadenza per le candidature è il 24 febbraio 2016. Rimaniamo ancora all'interno della scuola e lo facciamo parlandovi di un progetto anti-bullismo, un progetto europeo anti-bullismo. C'è con noi Renata Purpura, direttore della progettazione di Civiforme. Siamo a Cividale, qui sbaglierò la provincia, lo so Renata. Pordenone, Udine? Udine, chiedo scusa, ciao, buon sabato. Ciao, buon sabato. Allora Renata, dacci intanto il contorno di questo progetto, poi ci fermiamo per il traffico e ci racconti quelli che sono i contenuti, quali sono gli enti coinvolti e quali sono le nazioni coinvolte. Certo, allora il nostro progetto RISE è un progetto che mira alla prevenzione del bullismo, è stato finanziato dal programma Rights, Equality and Citizenship della DG Justice e prevede il coinvolgimento di 6 enti di vari paesi d'Europa, in particolare da parte di 5 paesi, Italia, Germania, Francia, Belgio e Bulgaria. E la gran parte di queste entità sono enti di formazione o scuole di formazione professionale che hanno annesso un convitto, comunque una boarding school, come la chiamano in altri paesi. Perfetto, guarda, ti fermo proprio un minuto lo spazio per le informazioni rivolte a chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, ancora insieme a Renata Purpura, stiamo parlando di RISE, questo progetto europeo anti-bullismo. Renata, ci stavi dicendo intanto della caratteristica comune degli enti coinvolti, quindi sono centri di formazione professionale con annesso convitto, si fa prevenzione partendo, se non ho capito male, prevalentemente dalle emozioni, è lì che si va a lavorare? Esatto, diciamo che un po' il progetto è nato con l'idea di lavorare in una forma preventiva e partendo dai ragazzi. Sì. E l'approccio preventivo significa che in qualche modo vogliamo lavorare su sviluppare le loro competenze sociali, emozionali, in maniera che siano degli adulti consapevoli, quindi per evitare in futuro che delle debolezze possano sfociare in atteggiamenti violenti o in bullismo. E la particolarità un po' di questo progetto è quello che ha voluto coniugare anche delle attività che verranno svolte, che sono un po' quelle outdoor, fisiche, della mindfulness, per cercare di fare un programma di intervento per i ragazzi che fosse un po' composito e avesse appunto queste attività che possono in qualche modo sviluppare le loro competenze sociali e emozionali. Mm-hmm. Lavoreremo con la creazione anche di una app. Sì. E che servirà anche per fare da parte loro una valutazione del loro benessere emotivo, infatti potranno comunicare attraverso questa app con i nostri tutor, con i nostri educatori, dicendo qual è il loro stato, mandando dei video, insomma in qualche modo noi dobbiamo ricordarci che loro sono nativi digitali, quindi dobbiamo comunicare con i loro metodi. Ma la dimensione del convitto un po' è un po' una dimensione, una palestra di vita, nel senso perché c'è questo filo conduttore che lega i vari enti? Perché avete scelto proprio questo? Sì, Diciamo che ci eravamo accorti che molti progetti che vanno a lottare contro il bullismo in Europa negli ultimi anni erano stati svolti nelle scuole, sì, di tutti gli ordini. Non era mai stato pensato che una situazione residenziale, dove si passa tanto tempo insieme, quindi c'è la parte scolastica ma ci sono i momenti di pausa, c'è il dormire insieme, il vivere insieme, fare attività all'aperto, potesse in qualche modo essere un contesto particolare, perché comunque si passa tanto tempo insieme. In alcuni momenti si è molto controllati, come nell'attività d'aula, in altri momenti si hanno dei momenti liberi, e quindi abbiamo deciso di indagare se nelle comunità residenziali di accoglienza questo fenomeno avesse delle particolarità. E quindi anche con gli altri colleghi tedeschi, mm-hmm, francesi e belgi stiamo facendo questa riflessione, stiamo appunto lavorando su questo specifico aspetto residenziale. civiforme.it è il sito ufficiale per avere le informazioni di questo progetto che è partito ad ottobre. Renata, un'ultima domanda: sono nazioni diverse ma le problematiche sono le stesse? Eh sì, fondamentalmente i ragazzi europei o comunque che noi accogliamo in Europa hanno le stesse caratteristiche un po' ovunque. Il target a cui noi comunque ci riferiamo è quello dei 14-18 anni, quindi insomma un'età anche abbastanza particolare, critica. Sono tutte persone che studiano per poi trovare un lavoro, o che in alcuni casi sono minori stranieri non accompagnati, quindi usciti da un loro percorso di vita e stanno cercando in Europa la loro strada. Grazie davvero Renata, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie a voi, buon grazie sabato a voi dell'occasione e dell'opportunità. Grazie. Ciao. Ancora. Is there a time for keeping the distance? The times to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down? Forgetting all worth your day. Is there a time for cool and lipstick? A time. Time for high street shopping to find the right dress to wear. Is she kind? Ooh, it's still around. Is she kind to take a crown? Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Sarajevo, capitale d'Europa, 20 anni dopo. Questo è il titolo di una mostra che si è conclusa ieri nello spazio espositivo del Consiglio d'Europa, mostra però di cui vogliamo parlare, perché è una bella fotografia dell'Europa che è stata, dell'Europa che è, partendo da una città, e questa città è per l'appunto Sarajevo. Diamo il benvenuto al fotografo Gabriele Mazza, che è appunto l'autore insieme a Vittorio Giardi di questo bel lavoro. Ciao Gabriele, buon sabato, benvenuto all'Altra Europa. Anche a te, ciao. Come mai questo racconto dell'Europa da parte di Sarajevo, dell'Europa da parte di due sanmarinesi, perché siete di San Marino voi? Sì, sì, esatto. Intanto un sanmarinese si sente europeo? Sì, ma almeno per quel che riguarda me, anche buona parte della popolazione sicuramente ci sentiamo europei, assolutamente. E voi avete scelto non di raccontare San Marino, appunto, ma di raccontare... Sì, no, noi eravamo andati a Sarajevo a presentare una mostra nostra su San Marino, no? Sì. E nell'occasione siamo andati oltre con il progetto chiaro di fare un lavoro su Sarajevo 20 anni dopo, quindi senza andare alla ricerca delle immagini che ancora purtroppo ci sono, di fori, di proiettili sui muri, ma semplicemente volevamo far vedere la città com'è 20 anni dopo, quindi la fatica che ha fatto e il futuro e la voglia di Europa che abbiamo trovato anche all'interno di Sarajevo. Strasburgo ha accolto questa vostra raccolta, sì, di immagini, questa vostra raccolta di storie, di emozioni. Sì, grazie ovviamente anche alla Reggenza e alle varie segreterie, in particolare quella della cultura e degli esteri. Abbiamo deciso, dopo l'esposizione fatta a San Marino, che meritava veramente di portarla al Consiglio d'Europa, dove anche San Marino è membro del Consiglio d'Europa. Ecco. E la più grossa soddisfazione è arrivata dal segretario generale del Consiglio d'Europa, che ha detto che è la prima volta che un paese viene a fare una mostra non su se stesso, ma su un altro paese. Ecco. E questo ci ha molto inorgoglito. Avete camminato per le strade 10 km al giorno per 10 giorni per raccontare questa città. Sì. Facci vedere alcune di queste immagini, cosa ti è rimasto? Oppure se c'è qualcosa che non sei riuscita a scattare, che non sei riuscita a immortalare, ma che ti porti come immagine nella tua testa, nel tuo cuore? A parte le immagini, che le ho tutte ben impresse nel cuore, ma soprattutto sono le persone. Mi hanno colpito tantissimo le persone di Sarajevo, questa grande disponibilità. Abbiamo girato, cioè, veramente tranquilli in questa città. No, immagini non fatte, no. Vabbè. Non rimpiango niente. E immagini invece che secondo te, non meglio di altre, però che sono praticamente significative per raccontare cosa sia Sarajevo 20 anni dopo? Dunque, per quel che riguarda me, la città, la parte vecchia di Sarajevo in particolare, uh-huh, e anche questi grandi cimiteri, sì, dove ci sono tombe di tutte quante le religioni, sono enormi, sono sterminati e anche lì convivono insieme. Questo per me è rimasto, mi ha colpito veramente. Gabriele, ci sono tracce di Europa nella Sarajevo di oggi? Ci sono, assolutamente. E anche abbiamo visto anche alcune manifestazioni molto pacifiche, devo dire la verità, insomma. E ho delle foto con dei cartelli dove si chiede Europa, mm-hmm, dove chiedono all'Europa di essere presente, ecco. Certo. Ho letto un tuo testo, una tua descrizione, dove dicevi comunque che è una capitale ancora fragile. Fragile perché è giovane, fragile perché è ferita, fragile perché non ha dimenticato. Sì, soprattutto credo che non abbia dimenticato. Soprattutto nelle vecchie generazioni. Cioè vecchie, mica poi tanto che sono passati solo 20 anni. Ancora il lavoro non ce n'è veramente poco, insomma, quindi la fragilità c'è, la convivenza sì, sembra sicuramente ce n'è tanta di convivenza, ecco, però senti c'è un qualcosa che è anche difficile da descrivere a parole, e lì, esatto, appunto uno sceglie di fare il fotografo, giustamente, perché con le immagini a volte si resta a raccontare, certo, e a dire molto, molto di più. Grazie davvero, complimenti a Gabriele Massa. Grazie. Per questo lavoro, e al collega Vittorio Giardi, appunto. La cronaca è la città di Sarajevo, questo è quello, certo, che avete raccontato. Buon sabato. Sì. Anche a te. Grazie. Grazie. E con questa mostra terminiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Paolo Corleoni ai tasti, oggi alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me invece hanno scritto la puntata. Radio24.it per poter riascoltare, scaricare il podcast e trovare anche tutti i nostri contributi extra. Oppure sui social, mi trovate, lo sapete, @ Federico Tadia su Facebook e su Twitter. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.